Lavorare con i disabili può essere un'esperienza gratificante e a volte invece è un'esperienza pesante. Quello che ho visto io nella mia vita, spesso operatori sono affaticati da questo lavoro. Ma questo non vale però solo nel lavoro con i disabili, vale in generale nel lavoro con gli esseri umani. Quando è che ci sentiamo ricaricati e stiamo bene? Quando si crea un flusso di comunicazione tra noi e le altre persone. Flusso di comunicazione è un modo di parlare che cos'è la vita. La vita è questo. Le pietre comunicano piuttosto poco tra loro, le amebe un po' di più, vermi di più e così via, fino ad arrivare agli esseri umani che hanno capacità veramente notevoli, che a volte usano e a volte usano meno. Adesso siamo in un convegno, stiamo parlando di musicoterapia. Perché musicoterapia? Perché dovrei usare la musica con un disabile? Ecco. Beh, intanto bisogna chiedersi quale può essere l'origine della musicoterapia. Una delle origini possibili per me, almeno quella che io capisco di più, è che chi è musicista, non sempre, ma qualche volta, ha avuto l'esperienza di curare se stesso attraverso la musica. E come ha fatto a curare se stesso? Perché la musica consente di esprimere l'inesprimibile, cioè il flusso nascosto dei nostri sentimenti più profondi, di cui siamo consapevoli solo in parte, ma che è essenziale esprimere. Nelson Mandela dice: nel momento in cui non diciamo le cose importanti, la nostra vita comincia a finire. Ebbene, le cose più importanti sono queste, cioè il movimento della nostra anima, i movimenti della nostra anima che chiamiamo sentimenti. La vita di oggi rende sempre più difficile trovare momenti in cui esprimere i nostri sentimenti. Impariamo a essere indaffarati dal mattino alla sera, ad avere scadenze, ad avere obiettivi, a programmare le giornate, ad riempire le agende di impegni. C'è poco tempo per essere in contatto con se stessi, col proprio corpo, con le proprie sensazioni, in contatto con quello che succede nella nostra anima. Ricordo un racconto di un gruppo di messicani, portatori messicani che aiutavano gli scienziati a portare delle apparecchiature in cima a un monte per fare degli esperimenti scientifici. A un certo punto, questi messicani improvvisamente si fermano e non c'è verso, non si muovono. Gli altri, no, gli occidentali, si chiedevano: ma perché, come mai? Però questi non si muovevano. Alla fine riprendono e partono e poi arrivano in cima dove dovevano arrivare. Finalmente uno della spedizione chiese a loro: ma perché vi siete fermati lì? E loro risposero: ci siamo fermati perché avevamo fatto le cose troppo in fretta. E le nostre anime erano rimaste indietro, così abbiamo aspettato di poterle recuperare. Ora, nella nostra cultura, quasi sempre le nostre anime rimangono molto indietro rispetto a quello che facciamo. A volte rimangono addirittura fuori dalla porta di casa, a volte le nostre anime possono ritornare in vita nei sogni, perché nella giornata non c'è tempo. Questo di cui sto facendo è un discorso sugli adulti normodotati che stanno bene, che hanno fermo restando la salute, come dice Nietzsche in un passaggio. Bene, e coi disabili c'è forse qualche differenza? Cioè, i disabili hanno o non hanno un'anima? Cioè, i disabili hanno o non hanno dei sentimenti? Un tempo si pensava che i bambini forse non ce li avevano, che comunque, e i disabili ovviamente no. Oggi sappiamo che questo flusso è la caratteristica più profonda della vita. Persino una meba ha un flusso interiore che va verso o via da. Dentro una meba, che è un organismo monocellulare, c'è, in modo semplificato, iscritta già tutta l'evoluzione successiva. C'è già un cervello, c'è un apparato riproduttivo, un apparato locomotore, un apparato che serve ad assimilare gli alimenti, apparato escretore, c'è tutto. E c'è anche qualcosa che assomiglia ai sentimenti. E questo assomigliare ai sentimenti sono un movimento verso e un movimento via da. Verso ciò che può essere utile, ciò che ci piace, via da quello che è dannoso. Nelle nostre relazioni umane siamo continuamente, noi siamo fatti 50 trilioni di cellule, tutte le nostre cellule partecipano a questo movimento verso, via da, apertura, chiusura, orientamento, verso, ritrarsi. Ecco. Bene. La musica, come dicevo, consente di esprimere l'inesprimibile. Che cosa c'è di più importante, stando vicino a un disabile, di cogliere questo aspetto? Che è già difficile in un bambino normale, perché oggi deve vedere 5 ore di televisione al giorno, 4 ore di computer, 300 compiti, 4.000. E questi bambini spesso oggi sono iperattivi, chissà perché? Perché hanno sempre da fare delle cose, sempre. E un bambino che ha sempre da fare non può essere in contatto con quello che è la sua anima. Noi insegniamo i bambini ad allontanarsi dalla loro anima. Bene, abbiamo ascoltato un brano musicale prima. Perché ve lo fate ascoltare? Perché lì vedete un pianista concentrato sul moto interiore dei propri sentimenti, moto interiore che è necessario per poter eseguire quel brano di Schubert, perché Schubert, quando ha eseguito, ha prodotto quel brano, a cosa è respirato? A quel flusso di sentimenti. Ed è per questo che ha scritto quel brano. Ed è questo che ha voluto comunicare. E l'interpretazione è qualcosa di molto complesso, perché si tratta di ricreare quel flusso particolare. Quel flusso particolare che il compositore ha voluto immettere nella sua opera. Il compositore, come essere umano, ha tratto un aspetto della sua vita, qualcosa che lo ha colpito, ed essendo in comune con noi il moto dei sentimenti, siamo in grado di recepirlo anche noi. Allora, se avete visto questo pianista che esegue il brano di Schubert, ha una particolare delicatezza nei momenti in cui è totalmente assorbito e commosso. Come se pregasse, come se toccasse qualcosa di grande. E che cos'è il sacro? Ciò che è oltre. Oltre che cosa? Oltre la banalità della vita di tutti i giorni. Compila questo modulo, fai la fattura, compra questo, vai di là, metti a posto qui, vai di là. Tutte azioni. È il senza spazio a questa magia che è dentro di noi. Quando è che accade che due persone si innamorano? Quando le loro anime si mettono in risonanza. Cosa vuol dire risonanza? Che se quest'anima emette una certa sonorità, quest'altra ricarica, la rimette insieme. E viceversa. Quando questo accade, si verifica un'attrazione tra le due persone. C'è proprio questo fenomeno. Paff! Attrazione che può essere molto forte, specialmente se è su tutti i livelli. Spirituale, mentale, emotivo, corporeo. Il corpo risente dei movimenti dell'anima. Un corpo che non è più in contatto con l'anima è diventato un corpo macchina. Due possono fare l'amore, ma come? No, certo. Anche se non sono in contatto, ma certo, l'apparato riproduttivo funziona benissimo. Ma questo tipo di rapporto non ha nulla a che fare con la comunicazione profonda. Ora, quella che è l'esperienza mia e quella che è l'esperienza di Giulia, è che questo moto dell'anima, questa risonanza tra l'anima del musicoterapeuta e l'anima del bambino, del disabile, quello che è, espressa dal musicoterapeuta attraverso i suoni, crea quel tipo di relazione profonda, che si genera proprio nella relazione d'amore. E che cosa prova il bambino quando si sente visto e riconosciuto così? Il suo centro del cuore si apre. Finisce quel no alla vita, quel no a tutte le cose che gli vengono chieste e comincia a comparire un sì. Sì, perché? Perché è quello che vuole. Dall'ameba fino all'essere umano, ciò che la vita vuole è risuonare, essere in comunione. È questo ciò che la vita vuole. E i sentimenti sono ciò che c'è di più vivo dentro di noi. Se non siamo in contatto con i sentimenti e non siamo in risonanza con i sentimenti degli altri, siamo già morti. Ecco perché la musica è una fonte di vita, ed ecco perché quindi è una fonte di guarigione. Ok? E allora, molte volte accade che chi si occupa di disabili a un certo punto soffra. Soffra perché tutti i compiti, deve fare questo, deve fare quello, deve fare quell'altro. Bene, ci sono alcuni operatori che non cadono in questa trappola, perché riescono, passo a passo, a instaurare un rapporto con l'altro, che è un rapporto di amore, cioè di risonanza reciproca sui sentimenti, qualunque essi siano. E quando questo viene fatto con la musica, che è uno strumento straordinario di risonanza, è chiaro che l'altra persona si sente riconosciuta a un livello profondissimo di anima, ed è per questo che la persona poi si apre e quindi è disposto a riprendere quel cammino evolutivo che a un certo punto è interrotto. Perché a un certo punto ha detto no alla vita, basta, io non ne posso più, non ne voglio più sapere. Molte richieste che vengono fatte ai disabili sono richieste così, burocratiche, fai questo, fai quello, fai quell'altro. L'anima del disabile è sempre da un'altra parte e quella dell'operatore è da un'altra parte. Allora, la musicoterapia è vera musicoterapia, questo credo cui abbiamo, nel momento in cui mette in collegamento le anime, cioè le psiche, cioè il flusso dei sentimenti nascosti. Ritorniamo quindi, questa è la cura attraverso la musicoterapia.